Io arrivo dall'aeroporto, parto e arrivo sempre in Santiago 9, Santiago 8, sempre così. La mia perde parecchio perché, ripeto, è dietro la ruota di scorta e non ha un piano di massa buono. Io sono ripartito e ora sono in movimento. Adesso ti sei ancora abbassato, però tra un po' forse migliore, dai. Vi siete sovramodulati. Che zona devi andare adesso? È propagazione, non fate bianco. Ma Tonino, andatosene. Latte dolce, adesso prendo la 131. Ah, Franco, Tonino, andatosene. C'era poc'anzi, non so se abbia detto un po' di bianco, ma adesso manca già da parecchio. Scappa. E poi Luca. Anche Luca fa bianco. Quindi sono rimasti io, tu e Savvidio, così è. Anzi, Luca mi sa che hai detto che andava dalla 25. Eia sì, perché tornata a casa sua, lavarsi e a farsi la doccia perché non c'aveva acqua, la 25. Sì, adesso che ricordo, è così. Scappa, oggi è a riposo, si fra. No, ho lavorato stamattina. Adesso domani sono di sera. Vabbè, dai, sino alle 2 lavora. Oggi sì, anche un po' prima. La settimana scorsa mi ha fatto 5 notti di fila, mamma mia. Stavo diventando un pipistrello. Sembravo Batman. Oh Gianni. Ehi, sai il freddo che c'è di notte. Quello è. Dimmi, Savi. Ti conviene passare da qua a 131 per andare a Latte Dolce, no? Invece di passare da Predagneta. Dipende dal traffico che c'è. Io passo sempre da Predagneta, faccio solitamente. Dove sei tu? Ero in via Canica, autorizzazione, adesso ho preso la 131, va. E allora ormai è bigliata. E vabbè, dai, io faccio sempre. Perché il traffico ce n'era stasera. Quando sono passato io per un bel di traffico, è fatto bene, ha preso la 131, va. C'era un bel di traffico stasera. Ah, ma quando mi ascoltate da qua, adesso sono sulla 131. Una bomba, sì. La radio buona, buono, bene esce di radio. Sembra amplificata. Eia, eia, no, beh, dai. E vuol dire magari le hanno aperto la LC, l'hanno stato toccato, capito? Ma è nuovo proprio, cioè sembra che non sia stato usato, chiuso nella sua scatola originale e tutto quanto. Ascolta, hai guardato la taratura dell'antenna, le stazionarie? Prima si faceva la cavalcata, tutte queste cose qua. Adesso boh, cosa si più portati? E almeno che vai a caccia o te lo porti quando vai a pescare. Gappa, vi siete sovramodulati, cosa stavi dicendo, Fra? Scusa, già. No, se hai controllato stazionaria, quella roba, la taratura dell'antenna. Domani mattina le controllo, ma visto e considerato come sto uscendo, penso proprio che abbia avuto culo della tarata. Beh, sicuramente chi ce l'aveva la stava già usando, però da macchina a macchina può cambiare, quindi dagli una botta di una controllata, dai. No, ma è roba ferma da un po' di tempo, da anni, che non è inutilizzata. Ma dico, una controllata dagliela con un rosmetro. L'antenna, la base magnetica era completamente ricoperta da rubiuvaru. E non mi fa niente la polvere. E anche la mia macchina si sporca di polvere, ma io la metto sotto al sedile e via. Se no devo usare la smontandole tutto, facendo la base magnetica, la metto sotto al sedile, l'antenna la metto da un lato e via. E io ce l'ho nel cofano, quante 1,80 l'abbiamo misurata, anche quella l'ha misurata anche la tua, quindi è un po', la faccio un po' piegare, tanto in acciaio non la metti come vuoi. Sì, hai ragione, prima erano 2 metri, io non lo so se queste di adesso le stanno facendo più corte, prima erano proprio 2 metri. Io infatti ho convinto che l'avessero tagliata, infatti me l'aveva assicurato, come si chiama, il Porto Torres, non ho più sentito, Eugenio. Sì, è entrato anche da poco, gli accessi, c'è sempre. E dipende dai turni che fa, capito? Seconda che ora lo chiamano, se magari c'è vento, la nave arriva tardi, lui è legato alla nave. Dai. Lo so. Tornando l'altro giorno, comunque sì, c'era freddo, un paio di minuti c'era freddo. L'ultima, venerdì, ho lavorato venerdì su sabato, ho fatto un video verso le 2, ero lì a Canica, stava fioccando, nevicando. Ho fatto la ripresa davanti al faretto del macchinario, si vedeva proprio la neve bella, soffice. Fortunatamente ha smesso subito. Però. Che bello quando nevica, ragazzi. Dà un senso di pace, di silenzio, una cosa che a me mi attira un bel. Io sono andato a Usilo invece a vederla. Quando non c'è vento, ma l'altro giorno c'era anche un po' di vento, quindi non era. Sì, è bello da vedere, però è più bella quando scende piano piano, soffice, tranquilla. E a Usilo ce n'era neve, come sei salito, tranquillo? No, oggi non ci sono andato, sono andato, quando è che sono andato? Non, ieri forse, ieri, o avanti. Ma le strade tranquille, fino a dove sei salito, fino a Bonaria? Sono salito, ho fatto un rifornitore, ho fatto quell'incrocio dopo il rifornitore, poi sono salito in quella salitina lì, mi si è fatta la macchina. Io già fermo, che macchina c'hai? Puoi dire? Sì, certo, la tipo turbo gas a GPL. Ah, quindi moderno, dai, recente. Kappa, sì, è nuovo. Infatti ero rimasto forse un'altra macchina io. Sì, avevo la Station Vego prima. Non mi ricordo, comunque, va bene, dai. No, io se fossi salito, sarei salito con colpo di strada, ma anche lì se c'è ghiaccio ti parte lo stesso. No, Tino è salito sino a su, sino alla prima chiesa, non al rifugio dell'Aquila, ma sino alla prima chiesa Tino è salito col fuoristrada. Sì, perché ci vogliono le catene anche nel fuoristrada, oppure gomme adatte, gomme da neve. Ma tu c'hai il 4x4, no? E c'è tutto, 4x4, ridotte, blocco differenziale centrale, posteriore, c'è tutto. Però quando nel ghiaccio c'è poco da fare, ci vuole aderenza, ci vuole. Lo so, infatti io ho fatto scendere a Marco mio figlio per darmi una spinta e non ce l'ha, lui dice che non riusciva a fare forza perché scivolava lui, capito? Quindi detto rientrate le macchine, si è tornato a retromarcia un po', poi gli ho dato una sgommata, l'ho fatta girare e me ne sono risceso giù. Vediamo un po' dove è arrivato Salvino. Sì, qua imboccando la bretella, rotatoria delle Porto Torres. Benissimo. Alla bretella, sì. E capo, voi vi ascolto sempre fortissimi, non ci sono nessun problema. Io sto scendo col 3009 con 4 watt. Oh, yeah. Sì, lo so, lì quella zona è libera. A me bene, mi ascolti, Sarri. Ciao Natalino, è certo che ti ascolto bene, e tu mi ascolti qua, in salitella della bretella. Cappa, forte chiasso. Ciao Natalino. Ciao Franco, buonasera. Ciao Gianni. Ciao Natalino. Oh yeah. Ascolta Natalino, glielo dai a Franco il mio numero di telefono? Ehi, glielo posso dare, aspetta, guardo. Se c'è il numero di Franco, mi sa di sì. Franco di Viale Sicilia, ma non Franco Califano. Franco io. Ehi, aspetta. Se non ce l'hai, ti posso squillare il telefono. Ma uscite in pizzeria, niente, fai niente, non stanno organizzando niente. No, non sono sentito nulla e noi ce l'abbiamo presa così a conto nostro, con Tonino ce l'abbiamo mangiata a casa, ma ancora non si è organizzato nulla, si potrebbe organizzare. Guarda, l'ultima l'abbiamo fatta da 3 anni fa, quanto sarà? Sì, già ti dà in tempo, l'abbiamo fatta in via Gorizia. Non mi ricordo la via che via fosse, però forse lì, perché c'era Claudio e compagnia. Chi c'era? Ah, poi c'era anche Margolino. Marco Condor c'era. Visto, c'era lì. Poi avevamo fatto una allo Speed Day. Lì non c'era allora. E lì c'era anche quello di Alghero, è venuto, e poi che adesso lo sta più modulando. Claudio, io, c'era un bel po' di gente, Natalino, un bel po' di gente, c'era quello c'è di Porto Torres, come si chiama, Eugenio, c'era un sacco di gente. Bello, vedi, non ho saputo, poi se non stava accendendo quel periodo, sa com'è, no? A volte alti e bassi, hai altre cose da fare, i vecchietti in campagna, c'è sempre da fare, a volte là, cerchi, sei costretto a abbandonarla. E beh, tua madre è ripresa bene, Sefra? Sta camminando, sta facendo ancora un po' di fisioterapia, però già cammina da sola, A me mi hanno chiamato dall'ospedale, se volevo ricoverarmi di nuovo per fare 12 giorni di fisioterapia, gli ho detto di no. No, la stiamo facendo, a pagamento, privatamente, a casa, dai. Io me la sto facendo io, e sto già camminando bene. Allora, tu sei giovane, dai, rispetto a mia madre, c'ha quasi 90 anni. Beh certo, io ne ho visto uno giovane in sedia a rotelle, operato lo stesso giorno mio, sono andato a fare la visita, io stavo già camminando se questo qui e la figlia gli ha detto: "Sì, cavolo, tutti camminando, solo tu che sei seduto la sedia a rotelle." E le tre, vabbè, è uno più di un altro, come i bambini, uno prima impara a camminare prima, uno impara a camminare dopo, ma già si riprende. Se la gente viene a rallegrare, l'orgoglio. No, ci vuole buona volontà, un po' di determinazione, costanza negli allenamenti. Poi ripeto, sicuramente non potrà correre la maratona di New York, anche prima un po' strisciava i piedi, quindi l'importante è che sia autonomo, che riesca a fare qualsiasi cosa in casa, poi adesso c'è anche la badante che l'aiuta. Dai, avanti Saverio. Franco, mica te l'ho mandato. Ok, adesso lo memorizzo. Riprendi Saverio. Sono qua a latte dolce, bianco per mettere le carabine. Cappa, adesso ti arrestano. Beh, perché c'è il baracchino senza concessione? Quindi non ne comprende nulla, mi sa che mi devo. Che devo fare? Ho duplicato praticamente dove dice nella gazzetta ufficiale, dove dice che non ci vuole più le concessioni né tassa pagata, se no se ti fermano, cavolo, almeno glielo fai vedere, se ti fermano i carabinieri non ne sanno un cavolo. Infatti conviene farsi una fotocopia della legge che dice che non c'è bisogno più di nulla. Che so che ti ho mandato io a te. Infatti, adesso me la faccio, non si sa mai. Se la metti in macchina, se ti fermano, guardi, questo qui è la gazzetta ufficiale. Io sono parcheggiato davanti alla Coppa. Dov'è la Coppa? Sì, come ti si chiama? La Conad. In via Gramsci. Come si scrive il room? Gianni. Eia. Come si scrive il room? R-H-U-M. Ah, io stavo sbagliando allora. Ok, riprendi. Cava. Eia, Saverio, dov'è questa Conad, quella del latte dolce? Poi Saverio si è messo. Natali, riprendi. Aspetta un attimo. Oh, chi è che mi stava dicendo qualcosa? Cosa Saverio? Sì, qualcosa stavi chiedendo, che stavo parlando in verticale. Ah, ti ho detto, se sia la Conad del latte dolce. Positivo. Quindi dove c'è Gio Maria lì, quella zona lì? Più o meno, sì, non è molto lontano da lì. Oh, mi dice che non è corretto il numero. Cosa fra? Mi dice che il numero non è corretto. Ascolta, te lo do io, 340, scrivitelo. Quello è giusto. 83657 55. Io ce l'ho sbagliato allora. Boh, tu mi mandi WhatsApp e tutto quanto, non è possibile che sia sbagliato. Forse gliel'hai mandato sbagliato tu, magari hai sbagliato scrivendo, allora. Eppure è giusto, 735 è la finale. Allora è la finale 755. E allora bisogna correggere l'ultimo, Natalia. Tu mi hai dato 3-5 finale. Aspetta un attimo, però, che a me mi risulta sbagliato. Però è strano, perché Natalino mi ha sempre mandato WhatsApp. Sì, ma era sbagliato andando, me lo può. Cava. Guarda, c'è squilla. E so che si nendi un coso HF ai carabinieri per già fuoco. Sta squillando? Sì, fra adesso mi memorizzo anche il tuo. Ok, ho chiuso. Gianni, le sto accendendo la radio a pattuglia. Vai. Comunque un camionista l'ha fatto, c'era un linea da 1200 watt, questo qui l'hanno fermato perché era dall'elettrauto, stava raccontando questa storia, l'hanno fermato agli punti a pattuglia della stradale e gli hanno detto: "Che cosa ci ha attaccato a quel baracchino?" E gli ha detto: "Niente, perché stava entrando nelle nostre comunicazioni. Tolga fuori quello che c'ha, perché sennò dobbiamo sequestrare il camion e cercarlo noi." E gli hanno sequestrato lineare, da 2200 watt di lineare va via. E poi gli hanno preso baracchino, lineare, gli hanno messo una multa esorbitante di 1000 passa euro. Poi già l'inguscia. Entrava dentro l'Islater Alfa. Allora l'hanno sentito mentre stava segnalando che c'era la polizia. Capito? Stava segnalando ai colleghi di stare attenti che c'era posto di blocco. Rientro di radiofrequenza gli ha fatto dentro gli apparati di loro. Un una volta già mi hanno sentito amici miei che già stavano ascoltando Radio Olide. Io sono passato lì in via, era al monte, no? Via Gattaneledda, su in alto, e sicuramente parlando sono entrato nei finali di loro e mi hanno sentito a Trentino tramite la radio. Davvero? Da Fonterraggio da fare. Loro me l'hanno detto, ti ho sentito a Radio Olide. E io sono passato lì, effettivamente sono passato lì. Avevo anch'io, non so se era un 200, no, un 150 watt stavo usando di potenza. Io mi ricordo che c'era un periodo che si divertivano con i lineari, passavano in via Umberto dove c'era un vacco, schiacciavano la portante e si accendeva l'allarme del negozio. Lei vuol dire la frequenza gli entrava dentro. A volte mi ricordo si aprivano cancelli, oggi magari le frequenze sono cambiate. E perché le frequenze degli elicotteri che io guidavo io non erano tutti 27 MHz? Mi ricordo io avevo da piccolo anche una macchinetta telecomandata, con le batterie ricaricabili. Oh, quando schiacciavo la portante dava l'impulso, andava a camminare, no? Poi ci fermava però. Però intanto l'impulso lo prendeva. Allora, avevo preso una angusta dei carabinieri, grande, bello. Sono andato al quadrato a provarlo. Quanto mi è durato? Se cosa ti posso dire? 10 minuti è troppo. Ho cominciato a farlo volare e ho visto quel lampione che c'è alto alto e saliva più su del lampione. E ha perso la radiofrequenza, invece farà da piccolo, non ce l'ho fatta a frenarlo, cazzo è caduto, si è schiantato a terra, si è fatta tutta a pezzi, c'era tutta la gente che guardava, bello, bello, ma è non ammara. Dai voce, dai voce. Non ce l'ha fatta a prendere la radiofrequenza, capito? Troppo in alto sono andato. E a scendere ho cercato di rallentare, di farlo girare, niente, se farà da picco. Devi provare un po' avvicinarti perché di lui, ma invece oggi vedi il drone ritorna a casa da solo, ma anche se non c'è segnale, schiacciato torna a casa. Torna a casa lì, sì. Un tipo l'ha perso, era in mare, e ha schiacciato questo tasto, torna a casa, però cosa ha fatto? Il drone è tornato a casa, ma dove era prima lui, c'è la barca, lui ha camminato con la barca, e qui gli è caduto a bagno. Ah, perché si è memorizzato il punto di partenza sicuramente. Deve essere che le coordinate GPS aveva, lui ha raccontato così, è caduto a bagno, un drone anche buono. E non l'ha recuperato. C'era un bel fondale, 30-40 metri d'acqua. I droni a me non mi piacciono come estetica, a me piace proprio l'elicottero, anche a Luca, perché Luca è lo stesso appassionato, siamo andati qualche volta in via, come si chiama, via Milano in fondo, dove c'è il parco di Monserrato. Per un po' però si scappa, non devo prendere a motore, ma poi io ne avevo preso già truppi, ne avevo le palle in terra, ci avevo pezzi di elicottero a gogo. Guarda che stavi schiacciando male il Mike, sì, comunque già ho capito più o meno, sì, anche io ero appassionato prima, poi l'ho abbandonato anch'io. Natalie. Grazie anche del favore, l'hai corretto il numero? Sì, Chimia. Non ci vuole il 3. Ok, grazie anche a Gianni, dai. Vediamo un po', rilanciate anche a Marta se vuoi il nome. Capo, avanti a chi tocca. Salverio. Ma arrestato a noi. Salverio, è entrato nei VHF, sì. No, quel portatile mi sembra troppo forte per essere un portatile, non è che è attaccato da che cosa sotto. Avrà i classici 4 watt. Kappa, boh. Magari con quell'antenna lavora bene. Io me lo portavo prima quando andavo con il cane in giro, per a volte stavo facendo questo, mi dispiaceva mollare e allora me lo portavo appresso, però consumavo un po' di batterie. Ma oggi ci sono quei portati, quei PMR o DMR, durano un sacco le batterie, è che non sono baracchini. Infatti, io ho messo anche le batterie di quelle ricaricabili, ma durano da Natale a Santo Stefano. E quelle credo che durino ancora meno di quelle classiche, dai. sì, non durano nulla, non servono a nulla. Io ho provato a comprare, ci avevo speso un bel di soldi, mi pare 25-30 euro per comprarle, e poi non ne vale la pena. Non so, quelle a liti oggi sicuramente sono migliori. Allora c'erano quelle a nickel cadmio, c'erano anche quelle dei torcioni per il radione, però ripeto, dopo un po' andavano in memoria e non servivano a nulla. Un periodo c'erano, quando facevano la cavalcata si portavano a tracolla la batteria e l'apparecchio a parte, capito? Si portavano questa batteria a tracolla e con quella lì va bene, ma è pesante stare a girare così. Bello è averlo un apparecchio che ti dura la batteria e poi quando torni a casa carichi, però così che si scarica subito. Usavano batterie di allarmi, quelle a secco, oppure batterie di quelle delle moto, quelle piccoline sempre, però lì c'è l'acido, bisogna stare attenti. E erano dentro una borsa, proprio ci avevano la borsa a tracolla, la prendevano, capito? C'era una borsa di pelle. Sì, no, quelle degli allarmi andavano bene, non erano neanche tanto grandi, sempre a 12, sì, a 12 erano però, non a 13,8, a 12 volts. Sì, vanno bene lo stesso, se usi un apparecchietto da niente vanno bene. Sì, l'unica cosa come dici tu, questa tracolla pesa. E allora? È preferibile, se no c'erano quei Midland che avevano le batterie tutte in fila dentro, sembrava un apparecchio, cioè faceva un apparecchio per la macchina e tipo andava anche come tipo portatile, si prendeva a tracolla anche quello lì. Cos'era Midland? Ehi, al Midland sì. No, mi ricorda qualcosa però non ce l'ho presente. E si poteva mettere faceva sia la portatile che poi mettono il fisso in macchina. Allora io l'avevo trovato quello lì, però poi l'ho ritornato perché c'aveva il vano batterie che era tutto quanto ossidato, me l'hanno venduto, quando io lo dovevo usare come portatile, non l'aveva manco aperto il vano batterie e quindi lui non lo sapeva, come sono andato a aprire il vano batterie era tutto lucido, tutto maniurato dall'ucido, le molle tutte rotte dall'ucido e cose, le l'ho riportato indietro. Vabbè, lo potevi ricostruire piano piano, le pezze già li trovi, o li smonti da un'altra parte, ti dovevi ricostruire tutto l'impiantino. Sicuramente hanno lasciato le batterie dentro e ha fatto patatrac. Vabbè, ma se io una cosa la pago, la voglio buona, non la voglio da ricostruire, abbi pazienza. Io lo dovevo usare così quando portavo il cane, me lo mettevo a tracolla e c'aveva il microfonino praticamente a parte, capito? Tu col microfonino parlavi. Sì, beh, se una cosa però ti piace, ti fa un prezzo, diciamo, basso, uno sconto perché c'è quel problemino lì, si potrebbe anche concludere, dai, da fare. Kappa, vabbè, io ho preferito fare così e mi sono tolto il problema. Andate avanti, Saverio, ci sei? Ci hanno abbandonato. Natalino starà mangiando a questo, che ore sono? Le 7 sono. No, mi sto afferrando con la stampante, un attimo. Natalino, mi è andato in tilt l'orologio, lo sai, quello Eco Drive, quello della CITS. Poi il freddo, non va avanti l'orario, rimane indietro. Non aveva mai fatto, era sempre perfetto, puntuale, guardavo canale 5, cavolo, sempre puntuale. Adesso mi sta facendo questo difetto. Che modello è? Non me lo ricordo il modello, si chiama Eco Drive ed è quello leggerissimo, dai. È bellissimo. L'ho cercato di nuovo a prendermelo uguale perché mi era caduto e c'era scheggiato un vetro e non lo volevo comprare nuovo, invece non l'ho trovato. E ho comprato quella colla che ripara i vetri, non so, quelli che riparano anche i vetri via Pascoli, che hanno quel tipo di colla lì. L'ho comprata su internet, gli ho messo quella colla e l'ho fatto sparire il taglio, capito? Ha funzionato? Sì, funziona. Certo, diciamo che appena appena si vede, ma non eccessivamente, se non ci butti l'occhio e stai attento guardando non lo vedi. Perché anch'io ce l'ho il Casio, quello che c'ha altimetro, quella roba lì, il termometro. No, io ho Citizen. Ah no, il mio è Casio, forse Casio Pro Trek. Siamo sempre quelli tecnici, orologi tecnici. È a ricarica solare, cioè anche la luce è bassa, anche la lampadina te lo ricarica. So, i carabinieri mi hanno detto se ho pagato la CIA. Vabbè. Mi ha detto ascolti, ma per questa azione la CIA paga. No, minimo ce ne avete 13 persone mi sembra, o 12, no? Per pagare la CIA, se no non si paga, diglielo. Sì, e ha detto, no, sta ascoltando Radio Venere, che proprio hanno le canzoni sacciarese, gli ho detto. No, Radio Maria, digli tu. Cosa ti hanno chiesto, tu qui? No, no, mi stavano guardando il blu. Hanno visto questa antenna luminosa. Sì, dai, bianco la parte mia che sto entrando al supermercato, sono al monte adesso. Comunque le attira le forze dell'ordine, ti fermano se ti vedono. A me mi hanno fermato a Santa Teresa con l'antenna e mi hanno detto cosa? Mi hanno detto che praticamente è pericoloso tenere l'antenna così lunga, che può far male a qualcuno, che bisogna che praticamente l'antenna deve essere piegata e ci deve essere un gancio per agganciarla. È tipo Alfa Sud, anni 60. Ehi, così mi hanno detto. E ho detto, ma guardi che noi facciamo servizio emergenza radio, abbiamo bisogno delle antenne libere così. Ah, basta, se fate servizio emergenza radio, allora un'altra cosa. Che tonti, non sanno cosa dire. Poi l'antenna piegata non puoi trasmettere, che c'è le stazionarie che vai. Infatti non esce. E allora facevo servizio emergenza radio, c'era scritto SER, FIR nella macchina, tutto qua. E mi ha detto, no vabbè, se fate questo tipo di servizio, ok, non c'è problema. C'era questa amica mia che era addormentata, così dire, ribaltata, addormentata. Cazzo, si è abbinato un raio, come si è svegliata di colpo e si è trovato il carabinieri davanti, si è abbinato un raio. Doveva sorridere, ne va. Dei tempi quelli. Una volta la sera noi abbiamo sequestrato tutto perché dice non coincideva la marca dell'apparecchio con la concessione. Solo perché c'era un adesivo sopra Seiko. E tu quello è un adesivo, l'ho attaccato io, non era. No, la marca è quella, era un irradio MC700S era. E non risultava con la concessione quella marca. Ma no, dicevo che la marca era quella dell'adesivo che c'era sopra. Questo adesivo era della Seiko, l'ho messo io. Neanche ne fa la Seiko di apparecchi trasmittenti. E bugusottica. Beh, poi la sera, meno male, sono andato lì, siamo agli punti, nella caserma e mi hanno restituito tutto lì dove c'erano i vigili urbani. Ho detto, ma mi scusi, ma i colleghi non... E avevo tutto, concessione, tutto. Kappa, vabbè. I vigili erano. Sì, i vigili dei punti erano. Tutto erano tolto. Meno male che il lineare era sotto, nascosto, quello non l'hanno visto. Poi loro non possono sequestrare la concessione, a parte che se tu c'è un apparecchio omologato, anche se non è quello che c'è in concessione lo puoi tenere, perché quello che c'è in concessione può essersi anche rotto. Io per dire l'ho venduto quello che avevo in concessione, non me ne frega nulla, l'ho venduto. Io ti parlo di tanti anni fa, 40, 45 anni fa, sì, i miei vigili di punti erano. La sera stessa mi hanno regalato tutto. Io la prima concessione che ho avuto l'ho avuta col Pears Simpson. Ma io era MC700S, ma a volte ne usavo anche altre. Ma anche io, però dovevi scrivere gli apparecchi che c'avevi in casa, gli apparecchi che usavi in macchina, tutto qua. No, a volte non erano neanche omologati. Ma prima c'era un bel di gente che usava apparecchi che non erano omologati. Prima, sempre ci sono state le persone che hanno preferito molti canali, se andavano nei canali alti a fare il QSO. Quindi ne avevo uno sotto nascosto, visto la Panda, c'aveva una specie di cassettone, no? Lì ci mettevo quello omologato e sotto ci mettevo, e il microfono usciva, sembrava che uscisse da lì, invece usciva dall'altro apparecchio. E anche io nella Panda l'avevo messo, ne avevo messo una di quelle antenne che c'hanno, che è odio, non ne metterò mai più, che c'hanno l'affare a farfalla. scherzo, se li farà, va sempre l'antenna, non tengono nulla quelle attacche a farfalle. Quella che ho dato a Talino, la frusta nera, però io avevo tolto la farfalla, ci ho messo il buloncino in acciaio, ho detto bene, vera che non si muove, anzi una volta mi si è spezzata. No, se ne scendeva sempre la mia, l'ho dovuto mettere una rondellina per bloccare. E la farfalla non fai molta forza, se pigli la pizza si faccia, invece come dici tu, la rondellina in acciaio, quelli di autobloccanti, con la piacina rotonda, era anche carino da vedere, là, perché non puoi metterci un bullone brutto. Là. Però quelle frusta nera dice che sono limitate nelle frequenze, che praticamente fanno solo i 40 canali, dai, basta. Forse sono più selettive, dai, però ricordati che l'antenna più selettiva è più rende. E intanto noi siamo sempre qua, sul 10, sul 23, qualche volta per fare le prove sul 20. Sì, un po' di ex faccio io, ma con questa canna da pesca, questa è multibanda. Sì, quella lì sì. Ho visto che non si muove niente. Io per dire, con l'antenna che c'ho sul tetto ricevo anche sui 40-20 tranquillamente, c'ho il ricevitore, sui 40-20 ascolto tutti bene 9-10, 9-20. Che frequenza è 40 metri? 7.000, da 7.000 fino a 7.200. No, io, portatilino, quello di cos'è? 2 metri e 70 centimetri, dai. Io ce l'ho tutte scritte le frequenze, per ricordarlo, perché magari me ne diventi. Neanch'io. Il portatilino c'ha 144, poi c'hai il 440, 444, poi c'è anche 520 che qui non si usa, è una banda americana. Ho capito. Ma questo per di tutto c'è la 27, c'ha FM, SSB, USB, insomma è bellino, è molto carino. Sì, una bella cosa, che marca è? Non lo so, non me lo dire perché marca non ne ho visto, però è molto carino. Tu hai presente un pacchetto, due pacchetti di sigarette, piccolino così, non è portatile, è di quelli stazione base, c'hanno l'antenna dietro, prende tutto, anche le radio private, tutto. Tanti anni fa mi avevano prestato una cosa del genere, sentivo anche i vecchi cellulari di prima, si sentiva tutto, era sintonia continua, tu schiacciavi e lui quello che trovava ci fermava. No, questo c'ha proprio la manopola per la ricerca. Però come dici tu, era piccolissimo, quanto due pacchetti di sigarette. Natalino, ci sei? Ehi, ha risolto il problema? C'è la pennina per digitare. No, negativo. A che punto sei? Guarda, stai combinando. Perché non stampa? E che ne so perché non stampa. Va bene, lì. Ma rompi duri cazzo, c'è stampante. Beh, cerchiamo. Sei bonga la pazzita, va. Mi dico, stai dicendo, va le cure, tumbata, un pugno a capo di cure. Cosa è? Che marca è? Una Epson XP630, Preso anch'io, io l'ho cambiata, ho preso una Canon, anzi me l'hanno regalata questa Canon, e ci voleva solo la cartuccia, e siccome è laser, questa quando ti serve è sempre pronta, quelle lì a cartuccia invece di a colori, ogni volta che andavo gli ugelli intasati, fai pulizia, qua, là, finito l'inchiostro, allora l'ho regalata e uso questa Canon. Io c'avevo la Lesmark, ragazzi, buttava le più le cartucce della stampante. E infatti così, conviene l'Italia ho pigliato una nuova, 2 anni di garanzia. E sai cosa ho fatto io? L'ho data a Portobello e mi sono comprato, con quei soldi mi sono comprato la stampante nuova. Sempre a colori o laser? No, a colori, però adesso non ce l'ho più, se l'ha portata via mia moglie e se l'ha portata a casa, dai. Quindi non ce l'ho più, adesso sono senza stampante. Io prima ci avevo tutto di stampante, potevo fare le fotocopie, ci avevo lo scanner, ci avevo tutto. E anche la mia aveva lo scanner sopra, invece questa è solo stampante. Sì, a volte mi manca, lo scanner a volte mi manca, però ormai faccio una foto e poi la invio direttamente dal telefono. Non sarà perfetta, però. Mi avevo praticamente comprato la carta fotografica e stampavo anche certe foto che mi piacevano, ma le stampavo, le faceva perfette. Sì, anche la mia stampava, però ci vogliono fiumi d'inchiostro, porca miseria, sono troppo care le cartucce. Sì, ti piglio per l'inchiostro, ti conviene portarle a stampare. Vabbè, comunque era, diciamo, la soddisfazione di farlo tu, capito? Poi quando ci siamo resi conto che consumavo di inchiostro, allora non l'abbiamo più fatto. Vedi, stampate ne aveva una mio padre, infatti la recuperi perché tanto lui non ne usa più. E sono quelle stampanti a piccoline, cioè sembra, come ti posso dire, un po' più grande di una macchina fotografica, di una reflex. E tu, dove tu ci metti le ricariche e ti fa queste foto a sublimazione, ma oh, sembrano foto fatte con la stampante, mi sembra c'ha tre colori, prima ti fa il giallo, poi il magenta, insomma poi alla fine ti esce la foto perfetta. Ma le fa piccole le fotografie o anche misure buone? No, sono misure, la classica foto da libretto, qualcosa sarà, 15x10, non so come la misura standard da portafoto. Io facevo col foglio diciamo fotografico, di quelli A4, di quelli grandi, dai. La stampava anche così grande oppure poi te la tagliava in quattro? No, la stampava. No, io quelle così grandi non le ho mai provate, le ho stampate solo in formato normale sempre, piccolino, perché me l'avevano dato in omaggio un pacchetto di quella carta lucida da stampare. Ma ti ripeto, non conviene molto, fatta lì, ripeto. L'ho stampato, mi quell'affare là. Bravo, vedetelo in macchina che se ti fermano almeno c'hai la prova. A me una volta abbiamo fermato, c'avevo un appuntamento al quadrato con altri CB, mi stavano aspettando, ci avevano i baracchini in macchina e cose, e io non arrivavo più normale perché mi ha fermato una pattuglia dell'anticrimine. Hanno voluto sapere tutto, ma non è perché volessero rompermi le palle, non mi hanno chiesto le concessioni né nulla, volevano sapere tutto, cosa si doveva fare per avere la concessione, perché gli sarebbe piaciuto questo poliziotto averlo a casa. E io stavo spiegando tutto, mi stavo trattenendo un vego, ho detto, ma c'è qualcuno, puoi accedere? Ho detto sì. E vabbè, mi hanno detto, ah, io attivo, mi dice ma sei te? Ho detto, mamma mia, che figura. Figura di, vabbè, non dico di cacca, ma insomma, un po' cariaggia. E vabbè, comunque questo poliziotto era entusiasta, le piaceva, forse ha cambiato idea. Sì, per così poco. Kappa. Aspetta un attimino che mi hanno fermato qua. Ah, vabbè, scusa, allora, stiamo aspettando. Natalia, come stai arrivando al Ghero con questa antenna? Io arrivo bene a tutte le parti, perché adesso sento la propagazione, prima non la sentivo. E c'avevo sempre il QRM Santiago 7 quando avevo quell'antenna a ricchia. Ah va, QRM 0. Miglia, vi metto la portante, vi ho detto di smetterla. Ma io ti abbiamo chiamato 100 volte, Savi, dove finisce figli? Sì, ma se ho detto che stavo entrando al supermercato, grazie a Eletta. Sì, ma no, cosa l'hai svaligiato l'hai? Come? Cosa l'hai svaligiato questo supermercato? Oh no, ho preso quello che dovevo prendere e via. Sto scherzando, dai. No, per sapere come arrivi ad Alghero, Mino, Natalino, sei migliorato parecchio con quell'antenna. Come? No, diceva Natalino, sei migliorato con quell'antenna per Alghero. Ma no, non ho avuto modo di parlarci con Alghero, però moltissimo. Arrivo bene dappertutto, dai. No, sei soddisfatto, dai. Avanti già. Ehi, ma in quella zona dove Natalino va bene con l'antenna perché è riparata dal vento, ma vicino a casa, ui. Bisogna innestarla bene, tutta fino in fondo, in modo e rinforzargliela un po' con del vulcano. Qualcuno l'ha rinforzata con dei pezzi di tubo di plastica per impianti elettrici, le giunture, dai. Ma scusa Fra, se è stata progettata in un certo modo da un ingegnere, non dovrebbe dare problemi. A me mi è truccata due voci. La prima volta sì, abbiamo sbagliato piazzandola perché non abbiamo preso le misure dalla Brescia, la Brescia si è magnato e niente, non abbiamo preso le misure, quindi è stata messa male, però l'ho aggiustata da quella volta lì. L'ho aggiustata per bene perché gli ho messo anche tre fascette d'acciaio che la bloccavano e tutto quanto, e poi le misure le ho prese la seconda volta. Beh, si è rotta da un'altra parte, sopra, eppure le misure le ho prese bene. Allora, non sono collaudate per i nostri primi, allora. Aspetta, supporta, ti arrivo. Prova. 1-2-3-1-2-3-1-2-3-3-3. Sei a 9 più 30. Ma prima, quando sei passato a casa, eri ancora più forte, eri 9-60. Sei in via Giovanni Pascoli, sono ora. Però non sei come prima, prima eri proprio a 10 metri sei passato. Cosa stai andando a prendere, a mangiarti la pizza? E allora, come mangio? Io le faccio le pizze, come mangio? Era una battuta. Sei fermo o sei in movimento? Sono parcheggiato, sono andato a Tamacchino. No, va bene, no, esce bene quella parecchietto. Mi interessa la modulazione, poi i watt sono 4 watt, quindi cosa si pretende? Sono 4 watt, io sto dicendo, vabbè, a parte che devo qualcosa, però questo apparecchio l'ho portato a 4 watt anch'io, 3,8, 4, dipende in che canale sei. Scappa, adesso riparto, dai. Perché secondo me, se sono canali alti o bassi, un po' cambiano i watt, non so se lo faccio anche nel tuo apparecchio già. Non ho capito cosa stavi dicendo, se anche ero distratto. Sì, io le dicevo che in base al canale in cui trasmetti, a volte la potenza cambia, non so se lo fanno anche molti apparecchi. Ma non l'ho mai notato, sinceramente, non te lo so dire perché non l'ho mai notato. Penso che sia una cosa normale che abbiano gli stessi watt, non lo so se lo faccia. No, salendo, scendendo, vedo che cambiando le bande, non dico canali classici, canoni, ma 40 canali, ma salendo oltre, tipo 80 sopra, 80 sotto, varia la potenza. Sicuramente o è l'antenna che magari risponde meglio, risuona meglio in certe frequenze. Sì, quello sì, quello lì sì. Se vai nei canali di sotto ti dà meno watt. Adesso non ricordo se è sotto o sopra, però vedo che cambiano. Qua adesso sono per esempio 4, quasi 4 e mezzo. No, io pensavo da un canale all'altro, per dire dall'1 al 3, per dire. No, no, così non te ne accorgi. Devi fare cambiare qualche centinaio di canale. Per regolare bene il watt, l'antenna non ce ne vuole. Vuole attaccato al carico fittizio quando deve fare le regolazioni. Sì, sì, ma poi cambiano in base a come risuona l'antenna. Salvi, allora un bel impianto adesso, dai. No, è impianto di Goggia. Che macchina c'hai adesso, Salvi? Sempre quella che c'avevi quando ti ho trovato io. La Megane, cioè, la Megane Station. No, no, non è quella allora. Vabbè, il buco, ma è vecchia da poter fare il buco oppure è nuova ancora? Ah, no, è vecchia, ma non penso di farne. Se c'è bene così, lo aggiungi. Adesso... Sì, ma prima regolati le stazionarie, perché se no se ti metti 747 ti dà un bel stazionario di base gribale. Quanti ne eroga il 747? Quanti ne dà? Sono tanti. E va bene, dai, non sono tanti. Però ai finali a MOSFET non distorce, è un bel lineare, dai. 747 è un bel lineare. E come consumo? Quanto consuma? Come ampere a ora? Bianco per me, bianco per me. Caffa. Fra, non mi va bene dare i consumi, che mi sono arrivati a 238 euro di luce. E allora ti ho battuto. Mi sembra che io sono a 270, compreso poi gli euro di canone, 260 ho pagato. Cazzarola. Ma com'è possibile? Io pagavo massimo 170 euro. Prima ancora di aumentare ne pagavo 70 euro, 75. Io ho guardato la bolletta dell'anno scorso, precisa, lo stesso periodo, gennaio, cioè, dicembre, gennaio, comunque la stessa bolletta, l'anno scorso ho pagato 100, 170, ma con 500 sficcioli kilowatt, questa volta ne ho consumato 350 e ho pagato di più. che costa di più la luce, prendetemela con tutti. C'è gente che prende 400 euro di pensione, come fa a pagare tutti questi soldi? Ma non lo so, ma te io cosa hai detto? A piglia via con Putin! Ehi, la scusa è Putin, è come il gas è sceso ai minimi termini e stiamo ancora pagando bollette allucinanti di gas. Oh, ti sto pigliando come bancomat, ci prendono quello che vogliono e noi muti. Dobbiamo fare come in Francia, bloccare tutta l'Italia. Basta. L'unica cosa è quella. In Francia non ha idea che cosa, bloccano tutta la Francia. Stiamo diventando conigli qua in Italia. E riescono a ottenere, non fate chi sono a anche l'altra volta avevano ottenuto quello che volevano. Non è possibile, vabbè, noi siamo in tre in casa, voi quanti siete? Noi in due. Noi siamo in tre, più il gatto, dai, ma il gatto proprio non consuma nulla. Vabbè. Noi ci abbiamo avuto un vizio che cantiamo e quindi siamo l'amplificatore. Mio figlio che c'è il computer, vuol dire sempre acceso, no? Quasi, forse anche di notte non lo spegne mai. Quelle sono, mi sembra, 500 watt l'alimentatore. Credo che sia, come dice, modulare la cosa, cioè consuma solo in base all'assorbimento. L'amplificatore nuovo che abbiamo preso per cantare al karaoke è 2000 watt. Però il consumo non è 2000 watt, 2000 watt è la potenza. Vabbè, ma più è potente il coso, più consuma. Sì, però non arriverà mai a consumare, cioè, tantissimo, dai, è sempre molto meno, in base alla potenza. Il computer non lo so, ma ripeto, non è il consumo, è proprio caro a kilowatt. Io ancora non ho cambiato, c'è ancora Enel distribuzione. Break. Avanti. Buonasera a tutti. Antonio? Buonasera. Antonio? Sì, è Bobo. Ehi, Antonio, avanti, buonasera. Tutto a posto? Quello che è a posto. Tutto a posto, niente in ordine, diceva. Anzi, lo dice ancora mio suocero. Gappa, gappa. E allora, ti arrivo il segnale oggi. Bene, bene. Bene per la truppa. Finito di lavorare? Non sto lavorando io. Non stai lavorando? Negativo. E come mai? Non sapevo. Chi è che mi sta chiamando? Avanti. Gappa, gappa. Mi dispiace a tu. Sì, c'è stata la sovramodulazione. Avanti. Sono 2 mesi che non lavoro. Mi dispiace, Antu, mi dispiace. Beh, speriamo che trovi subito qualcosa, allora, vai. Seria. Dati da fare. Natali. Il segnale da te. Signori, io sto mangiando, vai, rimane nascosto. Appetito, via da te. Antonio, che tuo segnale? Buona carica, dai, quello da fare. Avanti, Antonio. Gappa, assistenti io già. Gappa, il segnale è buono, dai. Già va bene, dai. 9:30, Gino. Qui 9:30, prima ci arrivava, adesso sicuramente non è favorevole per me, però lo sento bene lo stesso. Adesso sicuramente c'ha qualche foglio di carta sotto i piedi. Sì. Ce l'ho anch'io, Domani mi devo fare il coso, l'attacco per la CD Cigari, perché sennò mi sto caricando tutta la partita del gombo. Vabbè, sì. Salve, se voi fate un bel impianto, devono 300 watt lì. Ma c'è con gli alimentatori, non c'è più problemi. Sì, a tu, io mi, bombolì. Se me lo regali, già, lo faccio un bel impianto, Metto anche l'RG213. E a chi me l'ha regalato, verani? Beh, ora c'entra, ma tu sei ricco già, io sono povero. Sì. Tu ne hai più di me che sei travagliente, va. Lui. Ho figlio ma con la metà della pensione tua, sei ricco. Sì, credici. C'è un'attività, diceva tuo fratello, che mi dice che sei più povero di me. No, ma stai sbagliando, perché io non ne ho attività, io sono dipendente già. Io sono stipendiato. Ah, pensavo che... Ma anche tua madre ci lavora, no? Ci lavorava, fino a quando poi non è uscita la storia del Covid, boh, l'abbiamo mandata a casa. Sì, perché una volta mi ha risposto lì e ci siamo fatti una chiacchierata anche al telefono, capito? Gliel'ho detto chi ero. Vabbè, quando ho ordinato la pizza mi ha risposto lì. Infatti deve essere che ha connessione familiare. No, no, ma tutti i parenti, però il titolare è mio fratello. Un attimo di bianco, dai, riprendete. Kappa. Va bene così, dai. L'interessante è che si vada avanti, sa. Sono bianco. Mi sa che anch'io chiudo, ho già. Vabbè, fra, fammi sapere quando ti arrivo con la roba, capito? Kappa, mi stavo registrando per vedere la tracciabilità, invece lui mi dice già esistente e lui mi fa registrare, casino. Devo fare un'altra miglia adesso, se no aspetto quando arriva. Infatti, ci metterà due o tre giorni arriva. No, sono andato al sito ufficiale della Midland, mi ha detto che è tutto ok, quindi alla fine dovrebbero arrivare là. La roba l'hanno scalata, quindi vuol dire che è andata a buon fine. Il credito è stato scalato. Alla fine ci vengono 15 euro l'uno, compreso, ci rivediamo le spese di spedizione. Certo, sono ramo volante. Già. Ho detto, alla fine ci vengono 15 euro l'uno, ci rivediamo le spese di spedizione. Beh, certo. Quanto è pagato in spedizione? Un bel. In ovvero, quindi, alla fine. Ci verrà 4,50 a testa, dai, 10 più 14,50, 14,70, algo del genere. Già va bene, non c'è problema. Ma vediamo che ciofeca sarà. Dai, ciao anche a te Antonio, riprendi, buonasera, alla prossima. Ciao, ci sentiamo. Ciao, stai andando via, fra. Kappa, iniziamo a preparare qualcosa da mangiare, dai. Un abbraccio a tutti, salutate un Natalino quando finisci di mangiare e l'evento all'ascoltore, dai, riprendi già. E allora chiudo anch'io, vi ci porto il cane giù, dai. Che Serena che c'ha, e lo porto io, che c'ha la tosse, e non può portarlo giù con questo freddo. Ecco. Avanti, Breck. Buonasera, un controllo, me lo dai di Santiago Radio, grazie. Dove sei, fra la Britella? No, oh, negativo, sono a casa già, ciao, buonasera. Volevo sapere se mi ascoltavate bene. Sì, bene, fra, tranquillo. Ok, dai, ciao già, buonasera anche a te, dai. Sto chiudendo, dai, riprendo dopo magari se coincide. Non so chi altro ci sia qua. Ma è Giotta, sì. Zon, qua sento bene, chiaro e forte. No, negativo, sono all'autoscontro già. Quando la gatta non c'è tu più ballano di Diaghis. Ah, ma di positivo, frate, tutto sotto controllo da parte mia. Raga, ma arrivatemi con la mortante, Franco. Che è? Questo è Salvino, brutta bestia. Sì, sono in BM solo, là. Qua, giungendo nelle tue coordinate, cambio passo, sperando che ascolti. Ah, Salvino, dai, stai arrivando benissimo. A me mi ascolti bene, sì. A Puglia, siamo a Carissa, su cui sotto casa tua. Vanno a cercare parcheggio, rientrato da fare tutte le commissioni, dai. Mi ha fatto compagnia il barattino, Massimo. Kappa, Salvino. Già mi intendi tu a me. Antonio Bombolino. Antonio Bombolino, ma ti ascolto, come va? Bene. Ma che se non ho più la potenza di una volta, però già va bene lo stesso, dai. Dove sei? Alla Perucca? E via, con la Pumera. Andava alla grande, va benissimo. E anch'io mi adesso attacco da casa, fra poco, sto parcheggiando. Poi ci sentiamo da casa. Kappa, non c'è nessun problema. Avanti già. Dai, io adesso fra poco chiudo perché devo portare giù il cane, dai. Vi saluto, grazie per il QSO, sto chiudendo anch'io Andrew, mi dispiace però devo portare a Tyson, da che era sta male, c'ha la tosse, non può scendere. Ok, dai, porta a Tyson. Ciao, già ci sentiamo. Dai, salutoni a te e a tutti gli altri amici Sanvidio e tutti gli altri amici che sono in ascolto. Kappa, va, sentiamo cane. Filmato di sé. Ciao Franco. Non è più nessuno. Eccoci qua, mi pare si è caricato la batteria. Oh, Antonio, Bomorino, riprendo da casa, Ciao, ciao, salve. Ciao già, magari se rientri ci sentiamo dopo, vai. No, devo portare il cane e poi mi piace dal televisore. Ciao. Andavè, ciao, ciao già. Sono le 10, c'è qualcuno? Io se zero là là. Mi a Natale, Pasqua e Capodanno. Vabbè, Natale, cosa si combina? Ehi, ascolto, siamo. E ascoltando me stai ascoltando. A te non ha chiamato tu. Io ero in ascolto qua e ti ho sentito. Ah, qua, pensavo stessi ascoltando da altre parti. Oh, cosa vuoi dire? Non è che posso parlare molto a quest'ora perché disturbo, adesso sta arrivando un tipo e lo disturbo. Sto entrando pochissimo per quello. Ma non sei ancora riuscito a risolvere il problema. L'antenna si deve cambiare, quello là, se non ce la cambia lo disturbo, no? Poi è attaccata l'antenna mia, sarà tutta brasi che avrà 40 anni di antenna. E più che l'antenna sarà anche il cavo, magari tutto quanto sbucciacchiato col tempo dalle intemperie, la guaina sarà tutta aperta, magari la radiofrequenza entra dentro l'interno del cavo. Sì, infatti, addirittura una di quelle antenne si è spezzato il tubo e me ne farà del cavo, giù mai. C'ero io sotto, meno male me ne sono accorto e mi sono spostato, se no mi avessi avvisato. La ringrazio. Ho sentito Salvatore Maestrale, sabato si vuole prendere la patente, anche lui gli ho dato qualche informazione, visto che è andato in pensione, ha detto c'è un sacco di tempo libero, gli ho dato qualche link dove prenderla e poi delle informazioni per collegarsi qua in Italia. Ehi cappa, adesso vediamo se ci riesco, se non ci riesco questa volta mollo tutto, non me ne sbatte nulla, mi vendo tutto quanto e non entro più perché mi ha disgustato. Ma adesso sei già fresco di coso, tanto gli esami saranno a maggio, mi immagino. Provaci, vai da Antonio, JXO, lo dice a lui, ti metti un pochettino in riga e ripassi. Io cosa ci vado a fare da Antonio? È inutile che ci vada perché godando i vostri soldi e poi ti bruciano lo stesso. Vabbè, i soldi, cosa ci butti di soldi? Gli versamenti e la manca da bollo, non è che c'è tutta questa cifra, no? No, a quanto ho capito non devo pagare nulla adesso per il prossimo esame. Perché non devi pagare? Ma perché tu hai pagato per la sessione, come si chiama? Per l'istruzione, alla sessione aria hai pagato? No, io ho pagato sia l'ARI che l'esame. Però adesso questa volta dice che non dobbiamo pagare, stavano dicendo. Già mi informo meglio. Ma mai ti chiama Corvo. Ho capito, cioè tu per iscriverti alle lezioni hai dovuto pagare? Sì signora. Non lo sapevo, e quanto si paga? Ah, ho pagato poco, 40 euro, forse perché la metà anno. Capite? Non è per i soldi, no, è che mi rompe le scatole, a pagare poi mi bruciano. Ah, non sapevo, pensavo fosse volontariato, nel senso lo facessero così per cose. Vabbè, sicuramente quello non te lo faranno ripagare, però i versamenti devi rifarli da capo insieme alla marca da bollo. Dice proprio i versamenti non devo pagare. No, quelli per forza, te lo dico al 100%, quelli devi fare per forza, perché sono tasse governative, è come la concessione, eccetera, devi farla per forza. No problem, magari loro, no, visto che non sei passato, come quando fai la patente, l'autoscuola, e se non passi l'esame, se devi ripeterlo, non ti fanno pagare il corso, le lezioni, visto che le hai già mezzo fatte. No, ma io l'ho data lì, me l'avrei tentata, un altro tentativo l'avrei fatto, poi lavoro la spacca, tanto da mangiare non te ne dà, è solo una cosa che ti permette di utilizzare altre frequenze e magari divertirti un po' di più. Sì, già lo so, infatti me l'attento, finché è online me l'attento adesso, tanto è online, fino a questa volta, poi l'altra volta saranno di persona, perché se era stato accendere a Cagliari non ci avrei manco provato. Infatti è una bella sfacchinata oltre che dei costi. Ok, ma non c'è nessuno qua su questo canale? Sì, sono andati tutti via, dice che rientrano più tardi, speriamo che non lo stia disturbando a questo. Addirittura lo disturbi, cioè disturbi a lui e a te non ti disturbi. Io non disturbo nessuno, la colpa è tua proprio. A me mi lavi la televisione sta funzionando, non li posso nulla. E infatti è quello, allora i problemi ce li ha lui, magari c'ha un cavo tutto sbucciacchiato, gli hanno messo un amplificatore per amplificare il segnale che è debole, allo stesso tempo amplifica anche i disturbi, i segnali adiacenti eccetera, è normale quello. Però non ti sei mai organizzato, dice, metti, ti buscano 10 metri di cavo, un'antenna si recupera e gli fai i sistemi di impianto, così almeno puoi divertirti. Non si può salire sul tetto, non hai capito, se no non era il problema dell'antenna. Adesso ha detto che lui deve fare la botola per uscire, perché dice manca botola c'è. Fammi capire una cosa, tu l'antenna ce l'hai anche tu sul tetto? No, e non è per quello che l'ho messa in quelle come l'ho messa io, perché sul tetto non ci puoi salire. Ma tu ricevi bene tutto? Eia, esce fuori dal tetto l'antenna, perché è lungo il palo. E allora a quel punto gli fai uno splitter, un, come si chiama, un partitore dalla tua antenna, gli fai la calata direttamente a lui senza salire sul tetto. E cosa ci vuole a farlo? A fesseria ti prendi il cavo che ti serve, quanto ce ne vorrà il cavo per portarlo dentro casa senza salire sul tetto? Tu utilizzi l'antenna tua, la sdruppi. No, l'antenna mia è nell'altro palazzo addirittura, quella della TV. E proprio per quello non ci vuole portare, molta strada deve fare il capo per arrivare alla casa di questo. Sei nell'altro palazzo a fianco, ti sto dicendo. Io l'ho fatta perché non avevo possibilità di salire sul tetto. A me me l'ha messa un inquilino che c'era lì, l'antenna, io gliel'ho l'ho comprata, l'ho piazzata nel palo, gliel'ho data già pronta a mettere il coso. Me l'ha messa lui nel palazzo e io ce l'ho sul palazzo di fronte, cioè a fianco a me, l'antenna della TV. Neanche l'antenna del baracchino è sul tetto, è in facciata l'antenna mia. Perché non ho potuto salire sul tetto, capito? Ma sa fare un partitore, tu il cavo ce l'hai già da quel palazzo, fai un partitore, o come chiamiamo volgarmente detto, divisore, dall'uscita tua all'uscita di casa sua, non siete uno sopra l'altro. Eia, ma il cavo bisognerebbe intercettare, capito? Ma il cavo suo, gli metti direttamente un cavo, cacchio, ci vuole la taglia a fare. Ma io non posso salire sul... già sono fuori legge io, cazzo che... all'antenna mia non mi riesco a attaccarlo. Scusa, perché non si può attaccare all'antenna tua? Spiegami. Perché non posso dire dove è l'antenna, no? E io non sono in casa mia lì, no? Ma forse non mi sono spiegato bene. Allora tu, dal palazzo di fronte, ti arriva un cavo d'antenna alla tua televisione, vero? Eia, tu stai dicendo di intercettare il cavo mio. E cosa ci vuole? Non è che dentro casa tua. Prendi la presa, un partitore e glielo passi alla finestra sua. E cosa devo a farlo? Cosa devo? Poi al terzo piano lui è sopra di me, di due piani, sarebbero 9 metri. Converrebbe più a lui a intercettare il cavo mio e attaccarsi all'antenna mia. È quello che sto dicendo, così eviti, visto che hai detto che non puoi salire sul tetto, che c'è l'antenna fratica, il cavo fratico, utilizzi il cavo tuo direttamente, come segnale di qualità il tuo, buono, arriva forte o al limite? Uè, sente mava! Sì, ciao a tutti, no, già arriva bene qua, però io ho l'amplificatore sull'antenna, capito? Già arriva bene. Ecco, visto che c'è un amplificatore, c'è già un'altra uscita, l'amplificatore avrà un'uscita per una cianto comunque, per una seconda antenna, l'attacchi all'amplificatore tuo, se il guadagno si abbassa troppo, glielo aumenti un pochettino e sei a cavallo, e non devi fare nulla di particolare. Non si può che l'amplificatore è sul palo dell'antenna mia, io qua c'ho solo l'alimentatore, capito, a lui gli conviene intercettare il cavo mio, fare un partitore a T e così arriva il cavo in casa sua, capito? Capa, tu dove sei? A casa sua, dove sia? Ma la veloce? Via, ma cosa? È migliorato tantissimo il segnale, come mai? Ma aiutino c'è. Molto arrivo il segnale. 9 più 15, eri 9,5 l'ultima volta che ti ho sentito, ma hai cambiato antenna o hai messo qualcosa di aiuto? Sto salito un po' di più e poi mi sta aiutando un po'. No, no, è come, vabbè, un po' più basso di quando eri al centro Zurigo, però adesso la radio è bella potente, chiara, perché l'altra volta eri 9 più 5 e non era fortissima. Qualche volta si fanno i miracoli. Aspetta che c'è qualcuno che sta chiamando, avanti chi chiama? Cos'è detto Antonio? Che ci ha messo la saponetta, e coso, 5 è. E vabbè, perché è 6-9 sarebbe. Coso è, ma, Manuele. Ehi, a Manuele a proposito, ce l'ho ben sentito, ma stai vendendo un baracchino tu? Stai vendendo un baracchino a stazione base? L'ho visto, è bellino, ma è funzionante quello del baracchino? 100 euro il prezzo suo o l'hai messo così per attirare la gente? E funziona bene? È una bella radio d'epoca, con potenza 40 canali o 23 quello? È bello, è... come si chiama? Stalker, così è. Ma com'è, a 220 o a 110, Manuele? Allora devo dire, a un amico gli ho mandato il messaggio, lui che ha passato di questa roba, se per caso, come si chiama, l'interessa, ti mando il messaggio, tanto su cosa puoi scrivere, su marketplace puoi scrivere e ti faccio sapere, dai. Non è una bella radio, ma è tutto funzionante, c'è anche l'orologio quello. Sì, ma la batteria è per tenere la memoria, ma se tu lo tieni acceso si accende l'orologio, e allora non è roba di batteria. Capo, 100 euro finito o trattabile? Come? Forse adesso 10 in meno adesso. Ho capito bene allora, 10 meno eventualmente gli dico, dai, sei interessato dico gli ho detto lì 10 euro, dai, la benzina. Di meno ho detto di no, forse non ti sente bene che faccio la pompa. No, no, già l'ho sentito, c'è un po' di fruscio perché c'è il QRM alto, il segnale è buono, è un po' bassino di radio. Comunque, signori, io vi devo lasciare perché adesso vado a mangiarmi qualcosa. Ciao Antonio, ciao Natalino, ciao Emanuele e ciao a tutti gli eventuali amici qua in ascolto. Io interrompo, Mario, se c'è qualcuno ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao, pure io mi saluto, va. Ciao.